Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno, eccomi qui, io ci sono, voi siete pronti? Sapete che conto sempre su di voi, il nostro numero è a vostra disposizione, 349-238-6666. Alle vostre domande risponde oggi il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Grazie prof. Allora, noi siamo a venerdì, finisce un'altra settimana. Se dovesse individuare la notizia o il dato più importante di questi ultimi giorni, quale sceglierebbe? Questi timidi miglioramenti nell'andamento del coronavirus sono solo una riduzione della velocità nell'incremento dei casi, tra l'altro con uno stop ieri legato alle difficoltà quotidiane di sommare in modo sistematico i casi e quindi con magari ritardi o posticipi rispetto alle notifiche, che mi sembra il segnale per evidenziare e dare motivazione a tutti noi per continuare in quell'opera che ovviamente è appena iniziata di contenimento di questa patologia, che in qualche modo è schizzata veramente in maniera anche in attesa a livelli veramente elevatissimi. Ma professor Pregliasco, secondo lei quando potremmo avere dei dati reali che dimostrano in modo più chiaro un po' gli effetti di questi segni, delle azioni di restringimento di quarantena? Di fatto ci vorrà ancora qualche giorno, spostiamo avanti sempre l'asticella, perché in realtà tra l'altro in questa fase paradossalmente possono anche aumentare i casi dal punto di vista delle notifiche, perché si riducono i casi veri, complessivi, che sono sicuramente molto di più di quelli che arrivano alla segnalazione ufficiale. Questo è ormai evidente, soprattutto lo è in Lombardia rispetto ad altre regioni, perché è tastabile. Qui abbiamo parenti, amici, anche io stesso, che sono coinvolti in forme che non sono ufficializzate, cioè notificate. Quindi sicuramente nel momento in cui avremo meno casi sarà anche più facile per le strutture arrivare a individuarli di più, e quindi i risultati concreti li avremo sicuramente da questo weekend in avanti, ma ancora non con livelli, ovviamente non dobbiamo aspettarci cadute a picco, ma un continuo rallentamento che spero convinca e continui a convincere tutti gli italiani, soprattutto nelle zone meno colpite, perché sarà lì che l'efficacia sarà maggiore. Vero, la differenza. Professore, in questa settimana abbiamo sentito parlare molto di test rapidi che sono arrivati tra l'altro in alcuni ospedali. Sono tamponi? Sono esami del sangue? Che cosa ricercano? E soprattutto ci aiuti a capire se servono a fare diagnosi individuali o invece a raccogliere informazioni sulla modalità di circolazione del virus e quindi avere in qualche modo una idea della quota di popolazione entrata in contatto. È la seconda opzione che ha giustamente citato. Sono test che analizzano le cosiddette IgM-IgG, sono anticorpi rispettivamente della fase iniziale di malattia e invece IgG della parte invece finale o addirittura della memoria a lungo termine, se ci sarà, sperando che ci sia anche per questo virus come per altri, e che dimostrano, come dire, il segno dell'avvenuta infezione. In questo momento sono in corso, diciamo, di validazione, perché ancora ci mancano le tempistiche esatte di positivizzazione, perché questi test, ovviamente, come il tampone sappiamo, non è che hanno un segnale positivo o negativo immediato o necessita una, come dire, tempistica anche qui di produzione e di sviluppo. Tutto questo per dire che sono interessanti, ce ne sono diverse con tecnologie variegate, ma in corso di validazione, utili ad oggi in un'ottica, come diceva lei, di praticamente valutare in un gruppo di popolazione, mettiamo nei medici del mio ospedale, che è il Galeazzi di Milano, se quante persone sono state già toccate, quindi già infettate, in qualche modo quindi presumibilmente protette, dalla quota di soggetti invece ancora suscettibili, e quindi ci può dare un'idea di come organizzare, attuare e sviluppare magari diciamo, attenzioni diverse fra i vari operatori, però con la difficoltà e il dubbio di interpretazione per il risultato di Mario Rossi o di Giovanni. Professore, gli ultimi dati di Influnet, il bollettino di sorveglianza a cura dell'Istituto Superiore Sanità, ci dicono che l'influenza stagionale è in calo. Questo, professor Pregliasco, significa che chi ha la febbre, sintomi influenzali, con buona probabilità è stato colpito dal virus responsabile del Covid? Questo è praticamente vero soprattutto in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Piemonte. Oggi chi ha la febbre nei nostri contesti, dico nostri perché appunto milanese anch'io, è sicuramente il Covid. Una situazione diversa nelle altre regioni, però alla luce del fatto che la vera influenza comunque sta cessando in tutta Italia, in questo momento direi che questo approccio, diciamo, magari più pesante della realtà debba essere preso in considerazione, quindi tutti coloro i quali hanno una sintomatologia respiratoria o un po' di febbre in prima battuta devono essere considerati Covid, ma proprio in un'ottica di attenzione e di prevenzione della diffusione, perché per fortuna la gran parte dei malati in fondo subisce un'influenza e quindi sta a casa, magari un po' pesante, e deve stare a casa più che altro per non contagiare gli altri, cosa che dovremmo fare anche per l'influenza stagionale. Mentre invece avendo una percezione di gravità inferiore dell'influenza stagionale ci prendiamo un po' di paracetamolo, cosa che si deve fare anche per il Covid, e poi andiamo a lavorare. Questo diventa in questa situazione un grande rischio, visto il fatto che la suscettibilità delle persone è elevatissima ancora sicuramente nella popolazione. Professor Pregliasco, quindi in presenza di febbre e di altri sintomi, tosse, congiuntivite, dolori muscolari, stiamo a casa, ci proteggiamo anche i nostri familiari, immagino, professore, possiamo questo dare anche questa indicazione? Questo è il grande problema che mi immagino, famiglie un po' numerose, in abitazioni piccole, quando magari c'è anche una persona fragile ed è questo spesso motivo d'angoscia, ovviamente, tant'è che in diverse regioni si stanno attuando delle alternative, alberghi o altri luoghi per isolare con più serenità magari il soggetto sospetto. È chiaro che anche in casa, se una persona ha la febbre, va messo un po' in un angolo di un angolo, e questo mi rendo conto. In un angolo di un angolo. Si chiama il proprio medico, professor Pregliasco, ci aiuti a dare anche delle indicazioni agli ascoltatori che in questi giorni hanno misurato, visto che c'è la febbre, c'è un po' di tosse, si chiama il medico, il medico darà le indicazioni, e poi come viene seguito, monitorato e curato il paziente a casa? Allora, è chiaro che in questa fase, diciamo, crescente, ci sono state delle difficoltà, alcuni medici sono anche mancati, perché ci sono ben 41 medici, se non ricordo male, se non è sì, già adesso, aumentato purtroppo il numero. Purtroppo, professore, siamo saliti a 44 e continua ad allungarsi la lista dei decessi tra i camici bianchi per l'epidemia. È deceduto anche a Bergamo, con un'agenzia ce lo dice il dottor Giulio Calvi, e quindi il totale dei medici che hanno ad oggi perso la vita per contagio da nuovo coronavirus arriva a 44. Questa vi leggo l'agenzia, che aveva già letto anche l'amico Alessandro Milan. Professore, quindi stiamo vivendo un momento molto ammalati, quindi anche molti colleghi sono ovviamente malati, perché sono stati la prima trincea, quindi i primi che si sono, diciamo, in qualche modo subiti il primo impatto. E dicevo, comunque, al di là di difficoltà che ci possono essere, è sicuramente il primo riferimento il medico di famiglia, che può in qualche modo prendere carico della situazione e quindi indirizzare a quello che può essere poi l'eventuale necessità di ricovero, proprio da gestire in questo momento in modo adeguato. Non ci deve essere la paura di andare in ospedale, perché io temo che alcune situazioni che sono arrivate anche a esiti infausti siano stati legati al fatto di dire: io tengo a casa il mio familiare, perché magari purtroppo, come capita certo in alcuni e troppi casi, poi non lo si vede più. Per cui un'attenzione alle condizioni cliniche, e quindi far seguire il medico. In diverse regioni si sta attuando e aggredendo in modo, diciamo, più adeguato, con delle persone, dei medici che possono venire a casa, rinforzando la guardia medica, e spero che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ci sia questa possibilità di una connessione anche di contatto per visite, se sono necessarie, perché ovviamente i medici a questo punto giustamente devono soprattutto gestire diciamo così, questo certo. screening iniziale e poi utilizzare 112, 118, insomma i numeri regionali che verdi a disposizione. Che sono a disposizione. Eventuali professor comuni. Pregliasco, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Buon lavoro a tutti, arrivederci. 349-238-6666, il numero per mandare messaggi, fare domande, chiedere chiarimenti e consigli rimane lo stesso, mentre cambia invece il nostro esperto, è tornata a trovarci la professoressa Paola Cinque della SIMIT, infettivologa al San Raffaele. Professoressa Cinque, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Professoressa, in questa settimana, insieme a tante notizie, non sono mancate le bufale. Quella che sta circolando ancora in queste ore riporterebbe i consigli della Johns Hopkins University per evitare il contagio. È fatta molto bene, molto condivisa, perché va a soddisfare una richiesta comune, cioè ricevere consigli pratici per difendersi nella quotidianità da questo nemico invisibile. Infatti si legge la temperatura dell'acqua con cui lavarsi le mani, cosa fare dei vestiti. Professoressa Cinque, immagino che lei sarà letta con gusto, immagino, eh? Beh sì, certo che me la sono letta, anche perché ha circolato subito e devo dire che è abbastanza ben confezionata, come le bufale migliori, contiene qualche verità, qualche mezza verità, però purtroppo anche un sacco di sciocchezze e che riguardano anche argomenti che ci possono, di grande praticità, che ci possono portare anche fuori strada. Diciamo che questa bufala, chiamiamola così, è un po' smascherabile da subito quando c'è la descrizione del virus, è molto superficiale e anche non corretta. Poi però arriviamo a delle parti, diciamo, che ci interessano dal punto di vista pratico e qui è meglio fare qualche chiarimento, anche questa può essere l'occasione, giusto? Adesso, certo. Ha parlato del calore, dice questo testo che sta circolando, che naturalmente non arriva dalla Johns Hopkins, che mette ben altre indicazioni, il calore scioglie il grasso e quindi annienta il virus, ecco, non è proprio così. Anche perché si fa un riferimento a un calore di 25 gradi, teniamo conto che la nostra temperatura corporea è di 37 gradi e il virus sta bene dentro le nostre cellule, e perché il virus venga disattivato, reso innocuo, ci vogliono temperature molto alte che si raggiungono per esempio con la cottura. Qui torniamo sul solito discorso del lavarsi le mani con l'acqua calda, noi non possiamo lavarci le mani bollirle. Con delle... Esatto, sì. Certamente, ecco. Per cui va bene lavarsi le mani col sapone, acqua fredda o acqua calda, cambia anche abbastanza poco. E un altro argomento che viene toccato, che secondo me può meritare qualche chiarimento, è la questione dei raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti... Fermiamoci qui, professoressa Cinque. Raggi ultravioletti, tra poco ne sapremo di più, insieme alla professoressa Cinque. Informazioni sul traffico, poi di nuovo insieme a Obiettivo Salute con voi. Vi aspetto. Obiettivo Salute. Siamo tornati insieme alla professoressa Paola Cinque, infettivologa del San Raffaele di Milano. Prendiamo un po' in esame una delle bufale che sta circolando in queste ore, in questi giorni, per fare luce anche su alcune indicazioni, alcuni messaggi che potrebbero anche nuocerci, professoressa, quindi potrebbero suggerire dei comportamenti che non solo non ci proteggono, ma rischierebbero, no, di metterci ancora più a rischio. Non è proprio il caso. Ora parlavamo della luce dei raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti si sa che distruggono, se possiamo usare questa parola un po' banale, il DNA, l'RNA di tutti gli esseri viventi, anche dei virus. Però stiamo parlando di raggi ultravioletti ad altissime dosi, che si usano per esempio nei laboratori sotto una cappa dove si manipolano certe sostanze, che è poi il motivo certo. per cui alte dosi di raggi UV sono anche cancerogeni. Però non vuol dire che se stiamo al sole allora ci proteggiamo dal virus e che quindi l'oscurità è un fattore favorevole al virus. Ecco, bisogna stare attenti in questi termini. Poi un'altra cosa che su cui torna questo testo è l'uso di soluzioni alcoliche o di alcol in generale. E si sa che le soluzioni alcoliche sono molto utili, però devono avere una concentrazione tale da essere efficaci per la disinfezione delle superfici, ma anche delle mani, ma soprattutto per le superfici. La concentrazione tra il 60 e l'80%. La bufala, ormai la chiamiamo così, fa riferimento alla vodka, che è un alcolico che ha una concentrazione alcolica del 40%, non basta, questo è vero. E tanto per fare degli esempi, l'alcol denaturato, quello rosa che usiamo noi, ha una concentrazione intorno del 90%, basta diluirlo un pochino ed è efficace. L'alcol per uso alimentare ugualmente una concentrazione alcolica molto alta e si deve diluire un pochino. Però è un po' più costoso, per cui se abbiamo dell'alcol denaturato a casa, questo è un ottimo disinfettante. Ci sono anche prodotti, professoressa Cinque, che vantano appunto proprietà disinfettante, antibatteriche e quant'altro. Servono? Sono indicati? Adesso non possiamo fare un elenco delle varie marche, ma che cosa dobbiamo andare a leggere in etichetta? Vanno lasciati sulle superfici un po', che per dare in modo un po' di fare il loro lavoro, come si dice, oppure vanno subito passati? Così rispondiamo anche ad un SMS. Sì, diciamo che questi prodotti battericidi, che è un termine generico, sono tanti, bisognerebbe guardare nel contenuto che cosa c'è dentro, quindi qual è se c'è dell'alcol presente, in che concentrazione, sì, e se c'è del cloro presente e a che concentrazione. Il cloro è molto più efficace anche a basse concentrazioni, diciamo che queste sono le due componenti quindi essenziali. Alcol e cloro, questi sono da ricercare. Professoressa Cinque, io la ringrazio per essere stata con noi, l'aspetto per la prossima settimana e le auguro una buona giornata, grazie per il suo lavoro. Arrivederci. Io resto a casa e aiuto i ritmi del mio organismo approfittando del cambio dell'ora. E sì, ci siamo ed è con noi c'è il professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medica di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e a tutti i tantissimi ascoltatori. Pronti con l'orologio, professor Manfredini, si cambia ora. Sì. Effettivamente il cambio dell'ora legale può dare uno sfasamento dei ritmi circadiani e quello di domani notte è quello che piace un po' meno al nostro organismo, perché accorcia la giornata e ci toglie un'ora di sonno, e piace poco specialmente ai nottambuli a cronotipo gufo, ai giovani in età di scuola e agli anziani. Gli effetti sono lievi, 2-3 giorni, disturbo del sonno, sonnolenza diurna, scarsa concentrazione, peggioramento del tono dell'umore, anche qualche infartino in più. Approfittiamo quindi di questi giorni di emergenza, dove per la salute di tutti dobbiamo stare a casa, per evitare disturbi. Genitori che non lavorano, ragazzi a casa da scuola, i nonni, si prendano una bella ora di letto in più la mattina, ma non solo domenica, anche per fantastico. I prossimi 2-3 giorni. Fuori è buio e freddo, stare un po' sotto le coperte non è una punizione. Invece chi deve andare a lavorare e deve alzarsi, specialmente i gufi, il consiglio è che già da stasera vadano a letto un'ora prima. Ricordiamoci, perché il sonno è un bene prezioso per l'organismo e dobbiamo assolutamente preservarlo. E aiuta anche il nostro sistema immunitario, è vero professore? Assolutamente sì, il sonno è prezioso per tante cose, anche sul sistema immunitario. Grazie professor Manfredini per essere stato con noi. E adesso c'è una new entry, è Beatrice Carbone. Il nome, cioè, non siamo parenti ma abbiamo deciso di diventare cugine, l'avete già conosciuta anche in diretta Facebook, in cui ci ha raccontato il suo lavoro di ballerina solista alla Scala di Milano. Beatrice, ciao e benvenuta. Ciao Nicoletta, ciao a tutti. Allora Beatrice, io dico solo questo: chi ti seguirà danzerà. Con mia cugina abbiamo deciso di creare una piccola coreografia casalinga che si può fare in cucina, in salotto, con i calzini, con le scarpe da ginnastica. Però prima di fare la coreografia faremo un weekend di stretching, sempre esercizi che si possono fare a casa ovviamente, dove siamo tutti in questo momento, e ho registrato per voi dei piccoli esercizi da fare per terra, tutto uno stretching, un allungamento, e anche dei piccoli addominali, glutei, un piccolo rinforzamento muscolare, così ci prepariamo poi per fare il balletto. Ecco. Fantastico. Allora, grazie a Beatrice Carbone che farà di noi delle ballerine. È aperto a tutti, per tutte le età, perfetto, uomini, età, donne, sì, bambini, tutti insieme, tutti. Insieme a Beatrice Carbone, naturalmente sulle pagine di Obiettivo Salute. Grazie, e è arrivato il nostro momento, il nostro medicuoco quasi cuoco, eccolo qua in linea con noi, il dottor Stefano Erzegovesi del San Raffaele Turro di Milano. Dottor Erzegovesi, buongiorno, buongiorno. Ma qua si cucina, si impara, si va in dispensa, si rianimano verdure svenute, si va a riscoprire la cipolla e poi si fa il pane e poi si usa il pane secco. Tutto un lavoro. Tutto un lavoro. In questo momento, tema di oggi, noi portiamo avanti con passione il tema rispettiamo le verdure, siamo gentili con le verdure. Oggi rispetteremo e riscopriremo quelle verdure verdi appassite nel nostro frigorifero e scopriremo che pur con un'apparenza così veramente triste nel loro essere prive ormai di liquidi e di altro, conservano ancora grandissime proprietà sia come fibre sia come carotenoidi, e quindi sveleremo così un trucchetto per poterle preparare in una maniera anche gustosa per il palato. Un trucchetto, ce lo anticipi un po'? Sì, un trucchettino semplice semplice. Prendiamo la nostra foglia appassita, sì, togliamo le parti visibilmente rovinate, ricordiamoci sempre di tagliare un pezzetto di gambo perché la superficie di taglio è sempre ossidata, le scottiamo in padella con uno spicchio d'aglio, un po' d'olio e sale, gli mettiamo una patata a pezzettini e con dell'acqua coprire, 2-3 tazze di acqua a seconda della quantità di verdura, una bella frullata, l'amido della patata farà un po' da legante rispetto a una fibra che in quanto appassita è un pochino più duretta, e avremo una crema di foglie verdi assolutamente piacevole per grandi e anche per piccini. Dottor Erzegovesi, non riesco a mantenere i pasti, ci scrive un ascoltatore. Vi occuperete anche delle persone che costrette in casa mangiano di più? E spesso, sì, dottor Erzegovesi? Lo smangiucchiare è un tema in questo momento, anche per le persone che segue, che hanno problemi di controllo dell'alimentazione, è un tema molto sentito e molto forte, perché l'immobilità e il rapido accesso alla dispensa chiaramente facilitano questo tipo di comportamento. Ci dà due comportamenti trucchi, per evitare, ecco, due trucchetti. Prima cosa, importantissimo, teniamo grandi quantità in dispensa di prodotti freschi o di prodotti non immediatamente consumabili, quindi pasta, riso, cereali in chicco secchi e legumi secchi. Quelli, se anche ci viene la voglia, non possiamo mangiarli subito. Teniamo il frigo pieno di verdure e frutta fresca, che se anche ci viene la voglia la possiamo mangiare, ma se mangiamo due mele è molto meglio che non se mangiamo prodotti da forno, dolci o salati. Certo. E tutto e quello quindi... che... tutto quello che invece è immediatamente consumabile, il meno possibile, piuttosto surgelato. La parola chiave è guadagniamo tempo, cioè se al posto di metterci 10 secondi a prendere un cibo ce ne mettiamo anche solo 3 minuti, è più probabile che non lo mangeremo. Grazie al dottor Erzegovesi, a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, in assistenza Miriam Lucchetti e in redazione Laura Vanossi. Grazie e buona giornata da Nicoletta.